The motto for our retreat will be as follows, namely in line with Dhammapada verse 35. The mind is difficult to control. Allora, il motto per questo ritiro è preso da un verso del Dhammapada, precisamente il verso 35, e dice questo: la mente è difficile da controllare. Swiftly and lightly it moves and lands wherever it pleases. Quindi si muove e si appoggia in maniera leggera e veloce ovunque desideri. It is good to tame the mind. È bene domare la mente. For a well tamed mind brings happiness. Poiché una mente ben domata porta la felicità. Now, the Pali for this, and just to add a few words here, Pali is a scriptural language that was and still is in use on the Indian subcontinent, but also nowadays elsewhere. And the Buddha's teachings were written down in this ancient language. So the Pali for this verse then is Dunigahasa Lahuno Yatakama Nipatino Chittaso Dhammato Sadhu Chittam Dantam Sukavaham. E questo è il verso del Dhammapada recitato nella lingua Pali, che è un'antichissima lingua, una lingua delle scritture, diciamo, ed è la lingua parlata nel subcontinente indiano, tuttora, cioè la lingua che probabilmente è stata usata, utilizzata dal Buddha stesso. No, the first line of verse 35 says the mind is difficult to control. Now, we can look at this line as well as the entire verse from a theoretical point of view, but we can also look at it from a practical point of view. Now, within just a few days of practice, it will become pretty obvious that it is indeed difficult to control the mind. Namely, we may want to keep the mind alert, yet it falls asleep time and again, and especially during the last hour of the day. Quindi il primo verso, la prima frase di questo verso di Dhammapada dice la mente è difficile da controllare. Possiamo considerarlo da un punto di vista teorico, così come tutto il verso del Dhammapada, oppure da un punto di vista pratico. E ci accorgeremo già anche subito dai primi giorni di questo ritiro di quanto sia difficile effettivamente controllare la mente. Per esempio, noi vogliamo stare belli svegli e ci accorgiamo invece che ripetutamente ci addormentiamo, soprattutto durante l'ultima seduta della giornata. No. Especially at the beginning of the retreat, one starts out with all good intentions. One is going to be really concentrated, really focused on whatever predominant object comes along. However, very soon one realizes that the mind wanders off quite frequently. All'inizio di un ritiro si parte con tutte le buone intenzioni di essere ben concentrati, ben focalizzati su qualsiasi oggetto sia predominante, ma ben presto ci si accorge che invece la mente divaga molto spesso e non è sotto il nostro controllo. One may have the best intention to want to find out the true nature of an object, yet one might certainly find that one is not really knowing anything about the nature of a predominant object of observation. Uno parte con le migliori intenzioni di voler conoscere la natura vera degli oggetti, dei fenomeni che sta osservando, ma ben presto si accorge che invece non riesce a conoscere questa natura profonda degli oggetti predominanti. As for the second line, as swiftly and lightly, it moves and lands wherever it pleases. The following could be said. Namely, we find that time and again the mind wanders off. It goes off into the past, it goes off into the future. At times it thinks unwholesome thoughts, at other times it thinks wholesome thoughts. And one may want to observe whatever predominant object comes up, yet one finds how the mind gets sidetracked, thinking about this, thinking about some other matter. Per quanto riguarda la seconda frase, quindi la mente si posa sugli oggetti come le pare, ovviamente in maniera veloce e leggera, beh, questo lo possiamo vedere perché appunto noi desideriamo avere una mente concentrata, invece continuamente la mente divaga, o noi desideriamo avere dei pensieri salutari e invece li abbiamo non salutari, per esempio, e inoltre ecco, quindi capiamo molto rapidamente come noi desideriamo che la mente prenda una certa direzione, vogliamo indirizzare in un certo modo, essere focalizzati sull'oggetto primario, conoscere la natura, ma la mente viene continuamente deviata verso qualcos'altro. A volte va nel futuro, a volte va nel presente, nel passato, ma non riesce a stare sull'oggetto presente. We will probably all agree that our bodies are present here, but when it comes to the statement the mind is here, this is questionable, because practice shows, experience shows, even though the body might be here, yet the mind wanders off home. Oh, I forgot this. Maybe the car is still parking in a no parking zone. I might end up getting a ticket, and so on. Quindi saremo molto probabilmente tutti d'accordo nel dire che il nostro corpo è qui, è presente, ma non altrettanto si può dire della mente. Che molto spesso magari noi fisicamente siamo qui con il corpo, ma la mente è da tutt'altra parte. Per esempio sta pensando, accidenti, forse ho posteggiato la macchina in una zona dove c'era il divieto di posteggio, divieto di sosta. When it comes to these first two lines of Dhammapada verse 35, namely that the mind is difficult to control and suddenness swift and lightly it moves and lands wherever it pleases, this suddenness we can verify for ourselves through observation, through mindful observation, in other words, through Vipassana practice. Quindi questi due aspetti della mente, così come sono espressi in queste prime due frasi del verso 35 del Dhammapada, noi lo possiamo verificare molto facilmente attraverso la nostra pratica e in particolare attraverso la consapevolezza che sviluppiamo nella pratica di Vipassana. And so the Vipassana practice is simply put observing and knowing what is really happening. So in that sense, it's very similar to the work that a scientist or researcher is doing. One observes reality carefully and then tries to know what is really happening. Perché la pratica di Vipassana, quello che facciamo è cercare di stare molto attenti, di osservare ciò che accade nella realtà, nel momento. E da questo punto di vista la pratica della Vipassana è molto simile a quello che fanno gli scienziati, che osservano un fenomeno e cercano veramente di capire che cosa sta accadendo, la vera natura di quel fenomeno. The true nature of certain objects is that some objects may be to our liking and some others may not be to our liking. And Vipassana, as part of Vipassana practice, we pay attention to what every predominant object comes along, whether it is to our liking or not, whether it is desirable or not, it doesn't matter. If it's predominant, we do pay attention to it. Quindi la vera natura dei fenomeni fa sì che si presentino come fenomeni piacevoli o non piacevoli, desiderabili o non desiderabili. Nella pratica di Vipassana noi osserviamo qualunque sia l'oggetto predominante, indipendentemente dal fatto che sia piacevole o spiacevole. When it comes to the third line, it is good to tame the mind. Not everyone will immediately agree with this statement. There are plenty of people who say, just let the mind roam about freely. Let the mind do whatever it likes to do. But that was not the Buddha's understanding. Per quanto riguarda la terza frase, quindi è un bene domare la mente, addestrare la mente, beh, su questo non tutti sono d'accordo. Alcuni dicono, ma no, la mente è bene che vada dove vuole, che faccia quello che vuole, ma questo non era ciò che intendeva il Buddha, non corrisponde al pensiero del Buddha. No, when we start being mindful of whatever predominant object comes along moment to moment, and with this the mind also becomes more and more concentrated, then some intuitive insight or intuitive wisdom is likely to arise. And with this satna, then gradually we will find how the mind will become more and more alert, or will become alert and remain more and more alert, when previously it was not alert. And we find how the mind becomes increasingly focused, concentrated, when earlier on it was just the opposite of that, namely distracted. And more and more we come to see the true nature of formations. In other words, certain knowledge arises. Quindi man mano che sviluppiamo questa consapevolezza sugli oggetti predominanti, attimo dopo attimo, momento dopo momento, anche la concentrazione si sviluppa e riusciamo ad avere una mente più focalizzata, ci saranno anche delle intuizioni profonde, degli insights, e con l'andare del tempo la mente sarà sempre più vigile, sempre più attenta, sempre più focalizzata, e anche la concentrazione sarà più forte. Laddove avevamo una mente distratta, a questo punto avremo una mente più concentrata e focalizzata. A questo punto riusciremo a vedere sempre meglio la vera natura dei fenomeni e sorgerà la saggezza, la conoscenza. And with this certainly it becomes quite obvious to a retreatant that indeed it is good to tame the mind, because the mind can be shaped, it can be formed, and it can be turned from initially a rather untrained wild state into a more cultivated and developed state. A questo punto diventerà ovvio, evidente per il praticante o per il meditante, vedere che è vero che è un bene domare la mente, perché si vedrà come questa mente è stata trasformata da una mente distratta e un po' selvaggia, si avrà una mente invece più sviluppata, più concentrata, più attenta. Maybe the difference between all of you who are here and certain people elsewhere is that you've understood, at least to some extent, the nature of the mind, and you've understood that it's important to train the mind, that it's important to develop the mind. Then there are all these others who don't even pay attention to the mind, and they might think it's good to be distracted, they might think it's good to be sleepy most of the time, and so on and so forth. Quindi la differenza principale che c'è tra tutti voi che siete qui e gli altri là fuori, diciamo, che voi avete compreso, almeno fino a un certo punto, l'importanza del conoscere la vera natura della mente e quindi l'importanza di addestrare la mente. E non è così per tutti, perché per molti altri invece è importante che la mente possa essere distratta, possa essere assonnata. Now, within just a few days of intensive practice, a retreatant is likely to experience some degree of happiness. And this happens when a retreatant manages to overcome the so-called five hindrances. Now, at that point, one gets the message, namely that taming one's mind, it brings pretty much immediate benefits. Now, the happiness that arises after just a few days of practice, obviously, is still a relatively weak form of happiness, and there are many better forms of happiness to come. Ed è abbastanza verificabile anche dopo due o tre giorni di ritiro intensivo come una mente più addestrata sia anche una mente più felice, e quindi si capisce questa terza frase nel verso del Dhammapada, e cioè che effettivamente addestrare una mente porta felicità. È ovvio che la felicità che si sperimenta dopo solo due o tre giorni di ritiro intensivo non è una felicità così profonda, è un pochino fragile, superficiale, però si riconoscono i benefici della pratica e ci si aspetta che ovviamente questa felicità sia più profonda e duratura. And it's worth discerning here an ordinary type of happiness that arises when a person indulges in sensual pleasures. So let's say goes to a movie, watches some exciting movie, and then happiness arises. Or one decides to go to some restaurant and then have some really exotic, delicious meal. As a result of this, happiness might arise. So those are forms of happiness that occur based in the indulgence of sense pleasures. Sono un attimo indietro perché ho dimenticato di dire, di tradurre, che la felicità che viene dalla pratica spesso deriva dall'aver superato i cosiddetti cinque ostacoli che si presentano all'inizio di solito di un ritiro di meditazione. Adesso Bhante sottolineava invece la necessità di distinguere tra un tipo di felicità ordinaria o mondana che può derivare dal godere dei piaceri sensoriali, come per esempio un bel film o un pasto al ristorante, che ovviamente si può dare un certo grado di felicità, ma è un tipo di felicità molto appunto ordinaria o mondana. And once we then discover within just a few days of meditation practice is that a different type of happiness is available. Namely, a type of happiness that arises out of one's meditation practice, out of restraint of the senses and so on. And that's a type of happiness becomes available, and then as Satna indicated earlier on, other forms of Satna happiness will or potentially can further arise. And ultimately there is even the possibility of experiencing the peace of Nibbana. Quello che si può sperimentare però anche dopo qualche giorno di ritiro intensivo è che è possibile accedere ad un altro tipo di felicità, un tipo di felicità più profonda che deriva dalla pratica, deriva dalla possibilità di limitare gli stimoli sensoriali, e questo quindi è di grande incoraggiamento, perché uno può prevedere che appunto ci sia un grado di felicità ancora più profonda, ancora più ricca, diciamo, fino ad arrivare a sperimentare la pace del Nibbana. And that certain type of happiness then is referred to as a supramundane type of happiness. Quindi quel tipo di felicità viene definita come un tipo di felicità sovramondana. Now, you can try to think about it, but you will not necessarily understand what it means. It is through actually experiencing it that suddenly a proper understanding arises. Quindi uno può provare a pensarci, ma è difficile comprenderla così a livello razionale. È solo attraverso la pratica che uno può veramente sperimentare e comprendere pienamente di cosa si tratta. Now, Dhammapada verse 35 says that for a well-tamed mind brings happiness. So, we have a rough outline here of what is possible, namely that a well-trained mind brings happiness, but we don't really know how to go about things. And so, in this context then, insight becomes important. Insight in the Pali scriptural language is known as vipassana. Ok, quindi questa frase del Dhammapada, verso 35, ci dice che poiché una mente ben addestrata, ben domata, porta la felicità. Quindi questa è già una prima indicazione, ma molto spesso noi non sappiamo in che modo arrivare a questa felicità. Ecco che entra in gioco qui l'importanza degli cosiddetti insights o intuizioni profonde, che nella lingua pali corrispondono proprio alla parola vipassana. And the chief task of that insight in accordance with a discourse in the Anguttara Nikaya is the development of intuitive wisdom, which in turn leads to the eradication of ignorance. Quindi nell'Anguttara Nikaya si dà proprio una spiegazione di ciò che si intende con vipassana, ed è appunto lo sviluppo di questa saggezza intuitiva che porta allo sradicamento, uprooting dell'ignoranza, che porta allo sradicamento dell'ignoranza. Now, this training in the vipassana does certainly require that we change our conduct in certain ways, in more appropriate ways. Quindi questo addestramento nella vipassana richiede un cambiamento da parte nostra, nella nostra condotta. La nostra condotta deve cambiare, il nostro comportamento deve cambiare in un determinato modo. The Anguttara Nikaya, in its third volume, section 301, it says, therefore, the Buddha is exhorting, admonishing his monastic disciples, therefore you should train yourselves thus. We will guard the doors of the sense faculties. We will be moderate in eating, and we will be intent on wakefulness. Quindi nell'Anguttara Nikaya il Buddha esorta i suoi discepoli a comportarsi in un certo modo, quindi innanzitutto a proteggere le porte dei sensi, le facoltà dei sensi, diciamo, essere moderati nel mangiare, appunto gli esortava a essere intenti, quindi a sforzarsi nell'essere vigili, svegli, attenti. Furthermore, we will have insight into wholesome qualities, and we will dwell intent on developing the requisites of enlightenment. Inoltre, ci impegneremo a quindi avremo questi insights, queste intuizioni nelle qualità salutari della mente e cercheremo di sviluppare i requisiti dei fattori dell'illuminazione. Yes, right. So in this way you should train yourselves. So what we have here in this passage is, are certain ways of appropriate conduct, namely restraint of the senses, even though we have eyes to see with, yet we opt not to look here and there in an unrestrained manner, knowing very well that this will distract the mind. Quindi qui abbiamo delle indicazioni molto precise sul comportamento, sulla condotta. Quindi innanzitutto dovremo limitare, diciamo, gli stimoli sensoriali o comunque l'uso dei nostri sensi. Quindi pur avendo gli occhi cercheremo di limitare la vista, quindi di non guardare di qua o di là, perché questo può distrarre la mente, può distoglierla. No, furthermore, the food here is excellent, and with this obviously comes the temptation to eat a lot. And the result of this will then be sleepiness. So usually first sitting after a good meal with a belly filled, then one ends up becoming drowsy time and again. And so moderation in our intake of food will help to prevent unnecessary sleepiness. Il secondo consiglio, appunto, è quello di essere moderati nel cibo. Qui c'è dell'ottimo cibo, quindi è facile essere tentati di mangiare troppo, più del necessario, e questo può risultare in un'eccessiva sonnolenza durante la meditazione. Now, wakefulness is an important quality, namely in the sense that we really try to keep the mind alert, awake, during or throughout our waking hours, and not give in to this tendency of the mind to pull back and to relax and allow oneself to doze off. Quindi questa qualità della mente, dell'essere attenta, sveglia e vigile, è molto importante, perché sviluppando appunto questa qualità riusciamo a prevenire, a impedire la tentazione che la mente spesso ha di impigrirsi, di tirarsi indietro, di sonnecchiare, di rilassarsi troppo. No. Or outside of a retreat, we might suddenly get away with occasional daydreaming, with an occasional slacking off. But during a retreat, there is suddenly no time for that. And ideally, one wants to be wakeful, alert, or keep the mind alert from moment to moment to moment to moment. This is not easy to do, I know, But nonetheless, we could at least try. Quindi durante la nostra vita fuori dal ritiro è abbastanza normale che ci lasciamo andare a sogni ad occhi aperti o a una certa forma di rilassamento, ma qui ad un ritiro intensivo di Vipassana cerchiamo di sviluppare questa mente attenta che segue ciò che accade attimo dopo attimo, senza lasciarsi sfuggire nulla. Chiaro che questa cosa non è facile, però qui facciamo lo sforzo per sviluppare questa qualità. No, in the context of insight, certainly Vipassana, it is worth pointing out that the development of insight stands within an ethical context. Growth of insight will strengthen in turn our moral foundation. Quindi per quanto riguarda questa, come dire, questo aspetto molto importante dello sviluppo degli insights di Vipassana, beh, è importante vederli all'interno di un quadro di condotta etica. E la condotta etica a sua volta, gli insights, lo sviluppo degli insights a loro volta faranno sì che si svilupperà sempre più un atteggiamento morale. No, it appears that some are teaching Vipassana and not giving much emphasis to an ethical for the retreatants to follow the retreatants as well as the teacher to follow an ethical code of conduct. That kind of an approach is highly questionable. If there's no proper foundation in ethical conduct, how can knowledge arise properly? It's the type of knowledge that will arise will probably be a pretty incomplete type of knowledge. Quindi ci sono degli approcci, diciamo, degli insegnanti di meditazione che non pongono molta attenzione a questo aspetto del comportamento, del codice etico che invece andrebbe rispettato per lo sviluppo della pratica. Questo tipo di approccio appunto è molto discutibile, perché come può esserci sviluppo nella pratica, come ci può essere conoscenza attraverso la pratica se non c'è questa base di condotta etica o morale molto solida? Il tipo di conoscenza che si potrà, a cui si potrà accedere sarà di tipo molto superficiale e incompleto. No, at times Vipassana meditation has been accused of being rather egotistic. Those who engage in this certain spiritual practice is always about me. There's something wrong with it. But that's certainly really not the case. And the Buddha clearly states in the second volume of the Anguttara Nikaya, section 95, that a person practicing both for his own welfare and for the welfare of others is the foremost, is the best, is preeminent, the supreme and the finest of the four persons. Alcune persone accusano la meditazione Vipassana di essere un tipo di pratica egoistica, molto autoreferenziale, autocentrata, diciamo. I meditanti pensano solo a loro stessi, ma in realtà non è così. E il Buddha, proprio nell'Anguttara Nikaya, dice che un meditante che pratica per il proprio benessere, diciamo, e per il benessere degli altri, è un praticante, ha usato una serie di aggettivi, quindi è il più importante, il più raffinato, il supremo. I can't remember all the adjectives that he used for the. Comunque, the supreme, finest, il più alto, eccetera. Quindi il massimo, diciamo, dei praticanti delle quattro personalità. No. Perché parla di quattro tipi di persone, quindi quello che praticamente pratica per sé e per gli altri è, tra queste quattro personalità, questi tipi di persone, il migliore. And so, that's just a statement, given. Yet, we can verify it in our own meditation practice, and then we might find over time how, by carefully observing what is really going on in the body and in the mind, we understand much better about our, much better about the functioning of our own mind, and with that then, it becomes much easier to understand where others are coming from. Mm-hmm. And and as one's own mind is being purified more and more, one will then decide of things in ways that are beneficial to oneself as well as others. One will take decisions that do not harm oneself nor others. And so you have both parties involved. So it's for the welfare of oneself as well as others. Quindi questa è solo un'affermazione, però uno può verificare attraverso la propria pratica come, sviluppando la conoscenza dei fenomeni nel proprio corpo, nella propria mente, si conosce sempre meglio la natura della propria mente, e questo aiuta a riconoscere la natura della mente degli altri. E sviluppando la purezza della propria mente, quindi una mente sempre più sviluppata, permette, per esempio, di fare scelte o di prendere decisioni che vanno sempre più nella direzione del portare beneficio, oltre che a se stessi, anche agli altri. Quindi è proprio, come dice il Buddha, praticare per il bene proprio e degli altri. No. There's certain hindrances or certain activities that might hinder our spiritual practice. Elder Sariputta, who was one of the chief disciples of the Buddha, spoke of six such activities, some of which Jani has mentioned already. Work is the first one, talk is the second one, and sleep is the third one. Work is the first. Work. Okay. Work, quindi, talk, sleep. Ci sono alcune attività che possono rappresentare un ostacolo nella nostra pratica, e l'anziano Sariputta, uno dei discepoli più vicini al Buddha, ne elencava sei. Alcuni di questi ostacoli sono già stati indicati da Gianni, ma in particolare il primo è il lavoro, il secondo è la parola, the second is speech, and the third one is sleep. E il terzo è il sonno. Excessive sleep. Il sonno eccessivo. It doesn't mean that you shouldn't be sleeping at all. Definitely. Non vuol dire che non dobbiamo dormire affatto. Now, the fourth activity that might hinder spiritual progress is keeping company, delighting in company. And the fifth way is bonding, or companionship, association with others. And among the six, the last one is prolific conceptualization. And that's the one I would like to highlight a bit. I didn't understand the difference between the fourth and the fifth. Company and bonding. Company is one, fourth. That's the fourth, and bonding, companionship is the fifth. Which are very close. The first one is taking delight in company. Ah, vabbè, quindi c'è il rather than taking delight in the Dhamma. Ah, ok. Quarto e il quinto di questi ostacoli sono molto simili, cioè comunque il quarto è il apprezzare eccessivamente, ovviamente, godere troppo della compagnia di altri. Il quinto invece è il bonding, che vuol dire proprio sentirsi uniti agli altri, quindi è un passo successivo, non solo apprezzare la compagnia, ma proprio fare gruppo, diciamo, no? Con gli amici, eccetera. Quindi queste sono attività in contrasto con invece il trovare interesse nel Dhamma. E il sesto invece di questi ostacoli, è quello su cui vuole soffermarsi un po' di più, è la proliferazione mentale del pensiero. Right. And so, so retreat in mind, I'm not saying everyone, that minds be doing one sitting session after another, sitting, walking session after another. From the outside it may look very good, yet the person might spend quite a lot of time thinking, getting lost in concepts, one concept leading on to the next, and so on and so forth. And with this one is not really paying attention to what is really happening. Quindi può capitare durante un ritiro che il meditante fa la sua meditazione seduta, meditazione camminata, dall'esterno sembra che tutto vada bene, ma in realtà il meditante non sta facendo altro che pensare, produrre concetti, un concetto che porta ad un altro concetto, e ovviamente questo distrae e porta lontano invece dal prestare attenzione a ciò che sta realmente accadendo. No. This Vipassana practice is includes a training in three major areas, namely the area of ethical conduct as the first, the training in concentration as the second, and the training in intuitive wisdom as the third. Quindi la pratica di Vipassana si svolge, diciamo, in tre particolari ambiti. Il primo è quello della condotta etica, il secondo è quello dello sviluppo della concentrazione, il terzo ambito è quello dello sviluppo della conoscenza intuitiva, diciamo, della saggezza intuitiva. No. Training in ethical conduct means that we not only take the five or eight certain precepts, but we do try to live them, and we do try as much as we can to follow them in a meticulous manner. Obviously, at first, it might not be that easy. Obviously, we might even unintentionally break a precept. However, the intention should be be more careful in the future. E quindi, per quanto riguarda questo primo aspetto, diciamo, quello della condotta etica, si tratta di rispettare i 5 o gli 8 precetti, che vuol dire seguirli in maniera meticolosa, quindi non solo recitarli e basta, ma veramente metterli in atto. Può non essere così facile inizialmente, si possono anche non intenzionalmente rompere alcuni di questi precetti, però l'importante è che ci sia l'intenzione, lo sforzo di rispettarli. Now, when virtue or ethical conduct is suddenly there, then it can be, or it has been, referred to as an adornment, an additional adornment that one is gaining. And the adornment that arises out of purity of conduct is far better than any kind of external adornment, such as using makeup and whatever other means are there to beautify oneself. Quindi questo sviluppo della virtù o della moralità o della condotta etica a volte viene paragonato come, adesso in italiano non so come renderlo, adornment, è un abbellimento, diciamo così, è un abbellimento della mente che ovviamente è molto più importante, molto migliore, diciamo, di qualsiasi abbellimento esterno, come per esempio il truccarsi o il mettersi dei gioielli, eccetera. No, by being mindful of whatever predominant object arises, the mind needs to be focused. Focused for a moment, focused for another moment, a third moment, and so on and so forth. And when this satna is somewhat more the case, we find that the mind becomes satna somewhat concentrated. And with this satna then, the hindrances will at least temporarily be suppressed. Quindi per essere consapevoli di ciò che accade attimo dopo attimo, la mente deve essere focalizzata. E se la mente è focalizzata in maniera continua, inevitabilmente si svilupperà la concentrazione. Quando c'è una mente concentrata, i cinque ostacoli o i difetti mentali sono almeno temporaneamente repressi, sono soppressi. No, this much is good, but not certainly good enough. When certain conditions are there, those hindrances might still be activated again. And thus, the third training, namely the training in wisdom, becomes essential. And it is in knowing the nature of whatever predominant object comes up, that at first, on a temporary basis, the mind will be purified of unwholesome states, and later on, with the realization of the Dhamma, the mind will be permanently purified, at least of some unwholesome states. Ma questo non è sufficiente, perché appunto i difetti mentali saranno solo provvisoriamente soppressi, diciamo. Se le condizioni cambiano, possono sempre riattivarsi, ed è quindi solo attraverso la saggezza intuitiva che la mente può conoscere la vera natura dei fenomeni così come si presentano, e questo porta ad una più radicale purificazione mentale, che poi con la conoscenza del Dhamma, cioè con un'esperienza del Nibbana in poche parole, allora diventerà definitiva lo sradicamento, diciamo, di questi difetti mentali, di questi ostacoli mentali. No, the instructions for Vipassana practice, the gist of the instructions is satna as follows. The maxim is whatever predominant object arises in the body or in the mind, we want to be mindful of it. We want to first label it and satna then carefully observe it and know its satna nature. Quindi per quanto riguarda le istruzioni della pratica di Vipassana, in maniera così un po' veloce, sommaria, è che innanzitutto occorre essere consapevoli di qualsiasi fenomeno che accade nel corpo o nella mente, essere consapevoli di quando sorge, mettere un'etichetta mentale, no, sull'oggetto che è sorto, e poi conoscerne la vera natura. Typically, at the beginning of a session, we start with the observation of the abdomen, the rising and falling movement of the abdomen. being the primary object. Inizialmente cominciamo a porre l'attenzione sull'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, che noi assumiamo come il nostro oggetto primario di osservazione. So when the rising movement of the abdomen takes place, we first direct our attention to it, then we label it accordingly as rising, and suddenly then carefully we observe it and in a continuous manner from start to finish, and suddenly then we want to know its nature. To know its nature means to know its qualities, its characteristics in terms of its sudden sensations or movement or whatever else sudden might be standing or might be conspicuous. E quindi cominciamo osservando l'addome che si alza, quindi dirigiamo la mente su questo fenomeno, lo seguiamo dall'inizio alla fine e cerchiamo di capirne la natura. Capire la natura di un fenomeno significa coglierne le qualità essenziali, quindi le sensazioni che accompagnano questo fenomeno, e ovviamente cogliendo quelle che sono le qualità più rilevanti del fenomeno. And then we take it from there, from the rise and fall. If then some other more predominant object arises elsewhere in the body, let's say the thinking, then the thinking becomes the next object, we label it, we observe it, we try to know its nature. When it subsides, then we go back to the observation of the rising and falling movement of the abdomen. Quindi seguiamo appunto il movimento dell'addome per un po', poi quando sorge un altro oggetto all'attenzione, come per esempio il pensiero, allora rivolgiamo la nostra attenzione verso quel nuovo fenomeno e facciamo la stessa cosa, cioè lo osserviamo, lo etichettiamo mentalmente, cerchiamo di capirne la qualità, e quando il fenomeno poi sparisce, torniamo all'oggetto primario, che in questo caso è il nostro addome. Then, having observed the rising and falling movement of the abdomen for a while, then it could happen that a pain arises somewhere in the body. It could be in the knee, could be in the back, or in the shoulder area, wherever. And then we let go of the observation of the rising and falling movement of the abdomen, and focus our attention to the pain. We then label it, observe it, and observe it in a non-reactive manner, and we try to know its nature. Poi, dopo un po' che osserviamo l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, potrebbe sorgere un dolore nel corpo, nella schiena, nel ginocchio o da qualche altra parte. Allora lasciamo andare l'attenzione sull'addome e rivolgiamo invece la nostra mente, la nostra attenzione sul nuovo oggetto che è sorto, quindi su questo dolore. E di nuovo facciamo la stessa cosa, quindi lo osserviamo, lo etichettiamo mentalmente, cerchiamo di capirne la natura. La osserviamo in un modo non reattivo e cerchiamo di capire la natura. Now, with regards to a challenging sensation like pain, we want to find out what kind of pain it is. Is it a burning pain or a stinging pain or a tearing pain and so on? What about its intensity? Is the pain becoming stronger and stronger, or is it becoming weaker and weaker? And do we experience the pain just in one limited area, or is it spreading out? And how is our pain behaving in terms of duration, in terms of time? Is it a short-lasting pain, or maybe a very long-lasting pain? So those are just some very basic aspects that we could pay attention to with regard to pain or any other predominant physical sensation. Quindi nel caso del dolore o nel caso di una sensazione fisica difficile, diciamo, la possiamo osservare cercando di cogliere la natura in termini di, per esempio, il tipo di dolore, il tipo di sensazione, quindi è un dolore bruciante, uno strappo, è un'attenzione, eccetera, eccetera, oppure in termini di intensità, quindi il dolore aumenta o diminuisce, in termini di localizzazione, il dolore rimane sempre nello stesso posto o si muove, si diffonde. E infine in termini di durata, cioè un dolore che dura a lungo oppure è un dolore breve, e quindi tutte queste sono aspetti del dolore o della, di qualsiasi sensazione fisica che possiamo osservare. Should, let's say, a mental state like drowsiness arise, then and the drowsiness is quite certain and predominant, then we want to pay attention to it. And we take the drowsiness itself, if you like to, as a research topic. And so we start doing research into this mental state of ours called drowsiness. Many people, they don't pay attention to this. For them, drowsiness is just drowsiness, some unpleasant state. But actually, there is so much to be learned there. And so, if we do this time and again, then drowsiness can even be turned into its opposite. Prendiamo invece l'osservazione di uno stato mentale, come per esempio la sonnolenza. Ecco che ci poniamo di fronte a questo stato mentale così come farebbe uno scienziato, cioè lo prendiamo come un oggetto di ricerca. E molte persone questo non riescono a farlo, non lo ritengono così importante. Invece c'è moltissimo da imparare, semplicemente osservando lo stato di sonnolenza. E se si riesce a stare con questo, con questa osservazione, diciamo, per un certo tempo, ecco che lo stato mentale potrebbe anche trasformarsi nel suo opposto. Now, between now and tomorrow morning, 8:30, some general activities will come up, such as the process of waking up and getting out of bed, maybe taking or using the bathroom, and then dressing, and then the formal sitting, or prior to that formal walking meditation, and then breakfast. Now, during breakfast, we will try to be mindful of all the different activities involved, lining up, and then mindfully scooping the muesli, and then mindfully pouring the milk into the bowl, and suddenly picking up a few slices of bread, etc., etc. Then going to the table, also this we want to do mindfully. When we remove the chair, when we pull it backwards, we don't want the chair to slide across the floor and cause a lot of screeching noises, but mindfully we want to lift the chair. And so, and then when we take the food, we want to do all of this mindfully, from moment to moment to moment. There's so much to explore there. Quindi da adesso fino a domani mattina, quando sentirete poi le istruzioni delle 8:30, ci saranno tutta una serie di attività che farete, dall'andare a dormire, al svegliarvi domani mattina, all'andare in bagno. Poi ci sarà la camminata, la meditazione camminata, poi la seduta, poi la colazione. Tutte queste attività vanno fatte con grande attenzione e consapevolezza. Per esempio, durante la colazione, a partire dall'aspettare in coda, a quando poi si arriva a prendere la colazione, quindi fare molta attenzione a come si prende il muesli, ci si versa sopra il latte, si va al proprio tavolo, come si muove la sedia, cercando di non, insomma, farla come si dice, scricchiolare, ma non trascinarla, ma sollevarla con delicatezza, anche poi l'attività del mangiare stesso, insomma, tutte queste azioni vanno fatte lentamente con la massima attenzione e consapevolezza. And attention. E c'è molto da scoprire, da esplorare in tutto questo. And attention. Paying attention is in the sense of that we don't do things automatically, not certainly like driving a car in what is it called, cruise control, but rather we pay attention to every single activity. We are with what is happening. And that will make a big difference. Quindi prestare attenzione significa non fare le cose automaticamente, cioè non mettere appunto il pilota automatico in quello che facciamo, essere veramente con l'azione, con tutto quello che stiamo facendo. E questo farà una grande differenza, porterà una grande differenza. And suddenly, should you forget suddenly just upstairs in the dining hall, there's one message on the wall, sto facendo, what am I doing? Cosa sto facendo? Yeah. Ah, what am I doing? Se dovesse dimenticarvi, c'è una grande scritta di Thich Nhat Hanh su in sala di meditazione, una domanda che dice, cosa sto facendo? Yeah. And now, we will meet again tomorrow morning around 8:30, and at that point I will give you additional, much more detailed instructions, knowing very well that tonight you might only take in a certain amount of information, and overdoing it will not help. Quindi domani mattina alle 8:30 darò istruzioni aggiuntive, molto più dettagliate, ben consapevole del fatto che adesso siamo tutti molto stanchi, quindi non riuscireste ad assorbire più di tanto di quello che vi dico. Ok, allow me to conclude this opening talk in line with our motto for this retreat, namely, with the help of insight meditation, which very much involves mindfulness, may we see things for what they really are, objects as they arise in the body and mind, and then may we gradually come to understand that it is indeed good to tame the mind, and may this eventually lead us to the arising of that much inner happiness. And this is it for tonight. Concluderò il discorso di apertura di questo ritiro in linea con il motto che abbiamo menzionato prima, Dhammapada, e cioè che questo ritiro possa permetterci di vedere sempre più chiaramente le cose così come sono, le cose così come sorgono e la loro vera natura, e che questo addestramento della mente, questo domare la mente, possa portare ad una felicità sempre maggiore. Sadhu, sadhu, sadhu.